in guerra. Questo sto già impattando chi studia e lavora negli atenei. Enti e aziende entrano nella governance universitaria e il lavoro di ricerca diventa sempre più precario, in quanto progetto orientato alla spendibilità militare. E tutto ciò crescerà con il nuovo programma Horizon, che prevede che ogni ricerca debba, by design, poter avere applicazioni militari. Ed è proprio per questo che la nostra università non vuole nemmeno più parlare di tagliare gli accordi con Israele e chi lo arma. Dei principi morali non gliene frega niente, se c'è il rischio gli venga toccato il portafogli. E difatti, dopo che la mozione che abbiamo presentato in Senato Accademico non è passata per un solo voto, il mese successivo Molari non l'ha nemmeno inserita nell'ordine del giorno, violando le prassi istituzionali. Continueremo a mobilitarci contro l'allungamento del sapere e della ricerca alla guerra. Pretendiamo il blocco degli accordi di ricerca con finalità belliche e la cessazione di ogni rapporto con università, enti e aziende israeliane. Il sapere non si arruola e, come se non bastasse, il diritto allo studio sta venendo smantellato. A questo governo garantire agli studenti l'accesso all'università non interessa. L'accesso è riservato a coloro che ritengono meritevoli, che significa però solo una cosa: meritevoli di essere benestanti, ricchi e privilegiati. Non è solo il governo nazionale a fottersene di noi. La regione ha deliberatamente condannato Ergo, l'ente regionale per il diritto allo studio, a non funzionare per 3 mesi. 3 mesi in cui si sarebbero dovuti sistemare gli studentati pubblici e trovare i fondi per coprire le borse di studio. E invece ci ritroviamo d'autunno inoltrato con 382 posti letti in meno e milioni di finanziamenti che mancano. Lo Stato del diritto allo studio non ci investe, la regione se ne fotte. Questo cosa significa? Significa che quasi 400 studentesse sono rimaste senza casa e che tante di quelle che la casa l'hanno trovata a breve non se la potranno più permettere, perché la borsa di studio a cui hanno diritto non gli arriverà. Ma questo è un problema strutturale ben più ampio. In un sistema mercificato basato sulla competizione, ogni beneficio è sottoposto a criteri di merito. Per la borsa servono i CFU, per non pagare le tasse ti servono i CFU, e questo significa che i diritti te li devi guadagnare, meritare, e questo significa che sono privilegi, non diritti. Questo sistema a noi non va bene. L'istruzione deve essere gratuita ad ogni livello per essere realmente accessibile. Non solo, per garantire la possibilità a chiunque di studiare, i benefici che ti spettano di diritto devono essere garantiti, e non un premio che può ottenere se sei fortunata, se quest'anno il governo si è svegliato bene e ha deciso di finanziare l'istruzione e ti è andata bene. Ma che diritto è un diritto che non viene garantito? Noi ci ribelliamo, non staremo in silenzio. Al diritto allo studio non si calpesta. Per questo scioperiamo oggi e scioperiamo domani. La mobilitazione in università non si arresta. Un'altra università è possibile, per un'altra università e per un sapere libero.